La guerra è la cosa più stronza che esiste al mondo. I più belli, più forti, più magnifici li mandiamo a essere ammazzati, perché la guerra è una cosa inutile.